Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti. Prima, chiacchierando con Fabio Cantadori, che ringrazio in regia insieme a Laura Manossi in redazione, si diceva: ma quale sarà la reazione degli ascoltatori alla partita di ieri dell'Italia? Lo scopriremo tra poco. 800 24 00 24, numero verde. A me non pare il caso di insistere su un pessimismo diffuso e strisciante, cupo più del cielo che c'è oggi qui su Milano. I risultati contano, da noi a maggior ragione contano, ma il 10 agosto non è, secondo me, quello che devi chiedere ad un Italia che a oggi è una rappresentativa più che una squadra. Vero che poi vedi altre grandi sotto shock dal mondiale, soprattutto il Brasile che va negli Stati Uniti a ricostruire una squadra con un nuovo commissario tecnico, vince 2-0 e mette in mostra tutte le sue stelline. Da Neymar a segno insieme a Pato, a Ganso, sono giocatori giovanissimi ma già strepitosi. Noi no, siamo diversi e insomma ci crogioliamo un po' in questo pessimismo. Ripeto, secondo me fuori luogo, perché oggi secondo me che contano sono le scelte di Prandelli, che sono a parer mio corrette, però voglio chiedere un parere più autorevole. Avevamo lasciato Walter Novellino in una notte mondiale, chiacchierando di altri ancora impegnati nel torneo. Lo ritroviamo oggi davanti appunto a un'idea nuova, quella di Prandelli, che secondo me merita fiducia. Walter, buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti, ciao. Ciao. Secondo te? Sono d'accordo con quello che dici. Rimane il risultato, ecco, non si pensa che era una squadra costruita in 3 giorni, dove questi giocatori si sono visti soltanto per poche ore, insomma. Poi il Cesare non è riuscito a formare, a dare un'impronta, perché è presto, insomma. Io credo che, come hai detto tu, d'altronde in Italia facciamo subito a dare le sentenze. Già stamattina, leggendo un attimo i giornali, hai visto, siamo nettamente, non siamo ottimisti per niente, siamo pessimisti. D'altronde siamo in Italia e bisogna fare questo, si fa fretta a dire siamo in Italia, dobbiamo far crescere i giovani, d'altronde anche attraverso le sconfitte come ieri sera, perché non mi sembra che l'Italia abbia giocato così male, insomma. No, ma nemmeno a me, soprattutto nel primo tempo, Walter. Esatto. Ma poi vedi, siamo in Italia, dobbiamo far crescere i giovani, dobbiamo diventare come la Spagna, e poi ieri, già nel secondo tempo, sentivo i pur bravissimi telecronisti Rai, Bruno Gentile al suo esordio, dire: ah, però aspettiamo che torni Pirlo perché qui serve, ah, però magari Francesco Totti potrebbe anche servire, così non vai da nessuna parte. No, esatto, si rimpiangeva un attimino tutto il passato. No, bisogna andare avanti, diamo fiducia a Cesare che è molto bravo. Sì. Poi lui ci sa fare quei giovani, sono convinto che con Cesare si vedrà una grande nazionale. È chiaro che ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di pazienza, però ci sono. Balotelli è bravo, che se ne è bravo. Posso dirti una cosa grossa su Balotelli? Che ieri aveva 0 minuti giocati nelle gambe in stagione, perché con l'Inter, come sappiamo, tra passaporti persi, questioni di mercato, non aveva ancora giocato 0 minuti di calcio, di partita nelle gambe, nemmeno un amichevole. Ha giocato un primo tempo, soprattutto la prima mezz'ora, di grande impatto e di grande personalità. Ti dico una cosa grossa: non c'è un ventenne così forte al mondo. No, assolutamente. Come hai detto tu, l'ho anche rimarcato ieri con un commento sulla Gazzetta, che non si può giudicare Balotelli, perché Balotelli è un campione, non ha mai giocato questo pre-campionato nel ritiro, insomma. Non è riuscito, come hai detto tu, tra passaporti eccetera. Io sono convinto che la nazionale diventerà una squadra forte. È chiaro che Cesare sa benissimo che, giocando in questa maniera, deve alzare la squadra, i due mediani devono dare un contributo migliore, insomma. Però la squadra c'è, i giovani ci sono, e puntiamo su di loro, insomma. Ecco. Sì. Io raccolgo e ti giro un messaggio di Enrico d'Alessandria: Walter torna alla Samp. Ah, la grande. Magari io non un giorno, vedo l'ora di allenare, perché mi sono stufato di stare a casa. Ma ti capisco, vedrai che arriva presto la panchina, e poi avrai molto meno tempo per noi. No, faccio volentieri, perché siete gli unici a ricordarsi dei momenti di difficoltà di noi allenatori che siamo a casa. Ma ci mancherebbe un piacere. Senti, Walter, tornando al campo, dammi invece un parere proprio da allenatore. Questa formula di Prandelli, che non so, magari verrà anche riproposta, con due mediani puri come il tuo, Palombo, come De Rossi, esatto. e De Rossi, due mediani, quindi tre davanti, Balotelli, sì. Cassano, Mauri, è una formula che può reggere? Sì, io penso di sì. Adesso no, lasciamo perdere, perché Cesare non è riuscito a impostare quello che vuole. Sicuramente farà la squadra più alta, la terrà più su, e i due mediani saranno anche aiutati dei due attaccanti esterni che possono dare una mano fino a metà campo, i due mediani faranno meno corse laterali, insomma. Io sono convinto che ha fatto diventare grande la Fiorentina con questo modulo, e penso che lo fa, insomma. Ecco, l'importante è che la squadra abbia la mentalità giusta, insomma. Ecco. Mi sembra che ci siano due leader già chiari, che sono Chiellini per la difesa e De Rossi per il centrocampo. Si chiede a Cassano, mi pare che Prandelli chieda tra le righe a Cassano di diventare il capo dell'attacco, il capo giocatore dell'attacco. Ma io sono convinto che lo fa. Basta, se lo sa prendere. Poi è un giocatore straordinario, anche ieri si è visto lui e Balotelli. Io sono convinto, se Cesare ha la possibilità di tenere la squadra almeno per 10 giorni, 15 giorni, a chiedere ai propri giocatori quello che lui vuole, insomma, io sono convinto che questa è una formula che può andare bene, perché Balotelli è straordinario, Cassano idem, centrocampo, abbiamo due centrocampisti, non ce l'hanno mica nessuno, insomma, questi sì. Centrocampisti sì, in sì. Difesa, Chiellini, Bocucci, ecco, forse ecco, dobbiamo migliorare un po' lì, ecco, alzare un po' più la squadra, perché dobbiamo dare meno campo possibile alla squadra avversaria quando si perdono la palla ai nostri tre. Bene, laterale abbiamo, anche ieri sera abbiamo avuto problemi, io credo che però il futuro sia di Motta e di Santon sulle due fasce in quei ruoli. Motta, Santone e Cricito, questi sono i tre giocatori che rappresenteranno il futuro, credo, no? Sì, Cricito molto, anche ci credo anch'io, anche in Santone, però Santone ha giocato poco. Sono convinto che se Cesare riuscirà a alzare, come lui sa già, perché non è che io devo insegnargli niente, per carità, gli ho dato anche 7 di stima a Cesare. Hai fatto bene. Perché quello che contano sono le scelte, non quello che abbiamo visto in campo ieri sera, quello che abbiamo visto sul tabellone. Ha avuto il coraggio. Poi noi in Italia facciamo subito in fretta a dimenticare tutto, no? Ieri, dopo essere finita la partita, già si criticava le scelte. Vabbè, comunque, siamo qua. Però io sono convinto che, come ho detto prima, se c'è tempo di poter almeno vedergli una decina di giorni insieme, sì. Sono convinto che gli dà il gioco, gli dà tutto. Sì. Di diventare squadra, ecco, perché ieri due giorni... Ma è normale, o gli regalano una bacchetta magica, o Abete gli regala una bacchetta magica, oppure diventa difficile, no? Due giorni di allenamento in campo, facciamo i numeri. Bravo, non funziona così. Walter, grazie! Prego, grazie a voi della telefonata, è stato un piacere. Un abbraccio a tutti. Grazie Walter Novellino, è sempre un piacere davvero. Allora, siamo curiosi, no? Fabio Cantadoni in regia, Laura Vanossi in redazione, di sapere qual è l'atteggiamento degli ascoltatori oggi dopo questo 0-1 in uno stadio deserto. Ieri la cosa più triste, onestamente, era la cornice, però insomma era un'amichevole di agosto, così è stata. Traffico, poi cominciamo con Alex da Udine, Luca da Torino, 800 24 00 24, è il numero verde, a tra poco. A tempo di sport. Normale che ci siano un sacco di appassionati in disaccordo con me, anche piacevole, vi confesso. 800 24 00 24, tra poco li sentiamo, quelli magari in disaccordo con me. 349 238 6666, c'è già una fila. Non c'è un ventenne così forte al mondo. Jovetic è forte due volte Balotelli, questione di opinioni, caro Mauro da Varese. Non penso che io tra Jovetic e Balotelli mi prendo Balotelli tutta la vita, ma insomma, questione di opinioni. Certo, compatto, come sottolinea un ascoltatore, se la possono giocare, però ripeto, Balotelli ha 20 anni tra due giorni, con tutti i suoi difetti limabili, secondo me, dal punto di vista tecnico, considerato il fisico che ha, eccetera, eccetera, eccetera, i margini che può avere e così via, insomma, io me lo terrei stretto. Secondo me, ripeto, non esiste un ventenne così forte al mondo. Alex da Udine, buongiorno. Ah, salve Carlo, sempre un piacere parlare con lei. Reciproco. La mia posizione è di essere ottimista, prima di tutto. Sono molto dispiaciuto dalla telecronaca di ieri, perché certe critiche mi sono sembrate io non dico esagerate, ma piuttosto superficiali, perché insomma eravamo in piena preparazione e c'erano giocatori alla loro prima presenza in nazionale, anche molto giovani, addirittura alla loro prima presenza in campo stagionale, dicevamo, appunto, perché sono giocatori che hanno giocato Balotelli non ha ancora giocato un minuto, non ha ancora giocato un minuto di amichevole con l'Inter per i motivi che sappiamo, ma ce n'erano altri, insomma, siamo al 10 di agosto. Questa era un'amichevole estiva a tutti gli effetti. Il primo tempo, finché le gambe c'erano, non mi sembra avessimo demeritato. Due cose in particolare. Allora, una, non so se sono stato solo io a notarlo, ma Molinaro, ci sono state le critiche a Molinaro, è troppo timido, rimane troppo basso. Io ho visto Molinaro fare almeno 15 sovrapposizioni e non è stato mai servito. Sì. Questo non è un fenomeno, non è un campione, però andrebbe premiato almeno l'impegno. Sì. Dico, Balotelli non è uno che ti passa molto la palla, tende comunque a cercare la soluzione personale. Molinaro, io l'ho visto fare meno 10 sovrapposizioni a tutta velocità e non gliel'hanno mai data. Si vede che è mancata fiducia a lui e non c'era comunque. No, bisogna, Alex, questo è vero, bisogna anche però avere quelli che la palla te la sanno far arrivare, perché non è banale, insomma. Dicevo ieri sera, sentivo subito il tan tan dei rimpianti, no? Da Pirlo addirittura Francesco Totti, che mi sembra eccessivo, però in effetti un giocatore, non dico Pirlo, ma uno con le sue caratteristiche, in grado di rilanciare subito l'azione, può essere francamente utile. Ieri sera eravamo davvero alle prove tecniche di trasmissione. Io non credo che fosse questione di mancanza di fiducia in Molinaro, che ha fatto la sua parte e magari tornerà anche utile per il futuro, no? Con le sue caratteristiche e soprattutto con la sua testa, perché ripeto, lo apprezzo perché è uno dei pochi italiani che è andato all'estero e si è ritagliato uno spazio, una maglia da titolare, un rinnovo del contratto eccetera, e questo non è banale, questo qualcosa vuol dire. Però ieri sera io ho visto Cassano molto preoccupato di fare il suo compitino, sempre a palla via di prima, non ha tentato un dribbling. Ognuno ha tentato di fare al meglio quello che Prandelli gli ha chiesto alla lettera. Luca da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno, è sempre un piacere, cambiano i conduttori, ma la qualità e la competenza rimane. Grazie. Spegna trasmissione. No, io sono un po' così, forse fuori d'accordo, perché insomma centrocampo attacco abbiamo qualità, abbiamo possibilità di variare molto. Preoccupa la difesa perché Chiellini anche ieri insomma si è fatto così fregare sul gol. Io lo vedrei bene a questo punto sulla sinistra, e se rientra il miglior Santon, perché sì, se noi non abbiamo una base solida, e la base solida di squadra parte dalla difesa, sì, possiamo vincere 5-4, però non abbiamo la mentalità. Sì. Ecco. Ma insomma, io credo che Chiellini che sia già leader di quella difesa, credo però che ieri sera insomma fosse il reparto più improvvisato. Io vedo benissimo Chiellini e Bonucci come coppia centrale per il futuro e per molti anni ancora. Sugli esterni continuo a pensare che quel giocatore che abbiamo visto come un lampo nel primo anno dell'Inter di Mourinho, cioè Santon, per personalità, per talento, per mille motivi, possa rappresentare insieme, ripeto, a Motta e a Griscito il futuro sulle fasce. Questo è il mio pensiero. Poi lo rivediamo quest'anno, l'anno scorso praticamente era sempre rotto, non ha mai giocato. Voglio fare altre due chiacchiere con un signore che era in campo il 18 di agosto del 2004. Allora, vi leggo una formazione. Buffon, Oddo, Nesta, Materazzi, Zambrotta, Gattuso, Volpi, Perrotta, Fiore, Di Vaio, Bazzani. La prima Italia di Marcello Lippi, 18 agosto 2004, Islanda 2, Italia 0. Come Prandelli, prima partita, prima sconfitta. Come Berzot, anche lui perse all'esordio, addirittura come Pozzo. Chissà che non porti buono ciò che stava scritto ieri sul tabellone di Londra. Fabio Bazzani, buongiorno. Ciao Fabio. Buongiorno a voi, buongiorno, buongiorno. Primo centravanti dell'Italia di Lippi che ancora gioca per puro amore di questo sport. Questo è un piacere saperlo e sentirlo, Fabio. Sì, beh, diciamo che chiaramente sono passati anni da quella partita e fu la prima nazionale messa in campo da Lippi dopo chiaramente l'era di Trapattoni, e fu una partita simile a quella di ieri. Sì, nel senso che comunque sai, il 18 agosto la squadra eravamo tutti ancora nella piena della preparazione con i nostri club, quindi mi ricordo benissimo che andavamo a giocare quella partita con una condizione molto approssimativa. Il mister ebbe 2 giorni, appunto come stavolta Prandelli, per preparare quel tipo di partita con Versano, quindi insomma era molto una partita improvvisata, che infatti non giocammo bene e non facemmo bene, tanto più sì, che appunto perdemmo 2-0. Però cioè, io forse più di tanti altri ho capito le difficoltà che può aver incontrato l'Italia ieri sera, perché la situazione era simile a quella, certo, appunto che abbiamo vissuto noi, cioè, quindi 2 giorni solo di lavoro, ma soprattutto una condizione non ottimale, perché comunque quando sei nel pieno della preparazione le gambe non girano. Certo, quindi hai capito perfettamente ciò che ieri sera è successo sul campo, ed è per questo che è per questo che io non mi sento oggi di dare una valutazione negativa a quest'Italia. Semplicemente io valuto le scelte che ha fatto Prandelli e le condivido fin qui. Ma è chiaro che giudicare da ieri sera secondo me è difficile, è sbagliato, esatto, è sbagliato e frettoloso. Comunque un allenatore che ha avuto solo 2 giorni per chiaramente lavorare con un gruppo, ma non solo, cioè io quello che tengo a precisare ancora di più non è tanto i 2 giorni, ma un gruppo che non è ancora pronto, perché comunque siamo all'11 d'agosto e sappiamo benissimo che nel nostro campionato l'11 d'agosto vuol dire essere nel pieno delle preparazioni, cioè basta vedere le amichevoli di precampionato, che ritmo si gioca, le gambe come girano, e trasportarlo su un gruppo nuovo in nazionale che comunque ti dà anche dell'emozione, perché magari per alcuni è anche la prima volta, cioè, capiamo che chiaramente non ci si poteva, secondo me, aspettare molto di più. Fabio, tu ti ricordi cosa vi disse Lippi dopo quella partita? Ma Lippi ci disse di giocare nella maniera più semplice possibile, appunto perché avevamo poco tempo di lavoro assieme, le gambe e quindi chiaramente ci disse queste poche parole, ma secondo me per lui fu più che altro un test, chiaramente per vedere e per conoscere ancora meglio dei giocatori anche quella volta lì, tanto più che se non ricordo male, appunto hai detto la formazione prima, vabbè, io ero già stato 2 volte o 3 contrappattoni prima, però dico c'era Sergio Volpi che sì, anche lui era nell'esordio, quindi insomma c'erano anche giocatori diciamo nuovi che magari il mister voleva vedere bene, e quindi anche lui mi ricordo che era dispiaciuto, perché comunque la prima uno tende sempre a volersi presentare bene, però insomma sapeva che anche lì, sai, vai in Islanda, fai una trasferta e loro stanno molto meglio di te, tu sei una squadra nuova, non si aspettava sicuramente molto di più. Certo, è chiaro, com'è ragionevole pensare. Senti Fabio, Amauri può servire per il futuro di questa nazionale? È un giocatore che secondo te, da grande attaccante quale sei stato e quale sei ancora, perché non è ancora, hai deciso di andare avanti, dicevo prima, per puro amore del gioco. Ma sì, solo per quello. Ma Amauri può servire, secondo te? Ma guarda, la mia idea personale è che Amauri, se sta bene fisicamente, è un giocatore forte, un giocatore bravo. Però onestamente non lo vedo superiore a Pastini, non lo vedo superiore a Borriello, non lo vedo superiore a Gilardino, non lo vedo superiore a delle prime punte che nel gioco di Prandelli possono essere quelle 3 che ti ho detto. Quindi secondo me, se vogliamo farne un discorso di chiaramente tecnico, prettamente tecnico, secondo me Amauri non è superiore a quegli altri 3, però nello stesso tempo se Prandelli sceglierà Amauri, se sta bene fisicamente è un giocatore che ci può stare, però certo, se il titolare era già Gilardino, se Pastini ha già giocato in nazionale, secondo me in quel contesto lì loro non hanno niente da invidiare ad Amauri. Sono d'accordo. Fabio, io so perché giochi ancora, a parte per l'amore del gioco, perché la domenica senza la fortitudine è dura. Ma diciamo bisognerà abituarsi, d'altra parte voglio dire è inutile, andare la realtà bisogna affrontarla, ma vabbè, gioco a parte per passione ancora quello, quindi non è stato quello, però sì, beh, il fatto che la fortuna non ci sarà la domenica, bisognerà abituarsi, purtroppo la situazione ha preso questa piega qua che ci si poteva aspettare, poi chiaramente adesso ci sono mille vicissitudini che però io, dico la verità, vivo molto distaccate perché non mi piacciono, quindi il fatto di, non so, costruire qualcosa subito di nuovo per voler andare per forza la domenica a vedere qualcosa, non la condivido, io sono uno ancora dei tradizionalisti che secondo me la fortitudo è una, è quella, è malata in fin di vita, però è quella, poi dopo le altre non mi convinco, è come hai detto te, magari è voler andare a vedere qualcosa per forza la domenica. No, sì, ma al di là di quello, Fabio, da appassionato di basket quale sono io, come te, e da addetto ai lavori tutto sommato in fondo, a me la fortitudo manca già, perché io no, ma io credo che manchi più di tutti ai tifosi della Virtus e a Sabatini, eh. Me l'ha detto lui. Ma guarda, io credo che adesso, al di là di tutte le rivalità e gli sfottò che ci sono, come credo che sia giusto che in questo momento anche il tifoso della Virtus si prenda una rivincita per quello che è successo nel 2003, però alla fine cioè, la Fortitudo comunque a livello, ma io non sto parlando a Bologna, secondo me anche a livello nazionale, certo, è stato un qualcosa di importante, ma non per, le, per lo spirito, per la passione, per il seguito. Però detto questo, la Fortitudo non ha rispettato determinate regole, non ha rispettato determinati pagamenti, quindi è giusto che abbia fatto la fine che hanno fatto altre squadre che non hanno rispettato, quindi non è che il pubblico, la passione, la fede ti può dare la possibilità di, non, chiaro, di calpestare le regole, quindi è giusto che la Fortitudo sia finita dove sono finite tante altre squadre che non pagarono le tasse, e non solo a Bologna ma anche fuori da Bologna, tante squadre hanno rischiato il fallimento per i conti. Chiaro, è una perdita, me ne accorgo anch'io che è una perdita, ma sono convinto che sia una perdita anche per il basket italiano, perché alla fine sai, quando comunque c'è la Fortitudo in casa o in trasferta, la passione, il seguito era assicurato, quindi, certo, però c'è poco da fare, questa è la situazione. Non sono molto d'accordo, cioè, ma l'ho già anche detto in altre interviste, sul fatto di volere per forza ripartire subito con qualcosa che gli assomigli e far credere ai tifosi che sia la stessa cosa. Questo, lo, questo lo capisco perfettamente, Fabio. Grazie, in bocca al lupo. A voi, buon abbraccio. Lavoro. Buona grazie. Giornata. Grazie a Fabio Bazzani. Quindi abbiamo divagato anche un po' sul basket e domani ci torneremo naturalmente sull'argomento a spicchi, perché stasera c'è 18:30, nessuna diretta televisiva, c'è Montenegro-Italia, che secondo me alla fine, dopo la vittoria sulla Finlandia, rimane la partita cruciale per capire se, se ci siamo, non ci siamo, se gli europei li guarderemo in televisione con la morte nel cuore o se invece ragionevolmente potremo esserci tra un anno a sti benedetti europei. Tutti argomenti che toccheremo domani con il risultato sotto gli occhi. Ci fermiamo per la borsa, poi torniamo. Andrà da Venezia, Giancarlo da Vicenza già in linea. Aspettate per favore, un attimo solo. A tempo di sport. Ma è il momento di Tania Cagnotto. Buona presa di tavola. E buono il tuffo! Pulito, e si va verso la medaglia d'oro. È sicura. Si vola verso il primo oro di tuffi. E allora è oro per Tania Cagnotto, che manda un bacio ai suoi tifosi. Per me era importante partire come sempre col primo tuffo e, diciamo, convincermi che ho iniziato bene la gara, quindi è già più facile finirla meglio. E è stato così. Per me questa gara era quasi più importante dei 3 metri, perché dovevo rompere il ghiaccio. La prima gara è sempre così. E a controllare subito lo stacco abbondante e buono di Fabio Scozzoli in lotta per cercare di salire sul podio. Si è confermato per Fabio Scozzoli, c'è il bronzo. È veramente bellissimo. Sì, guarda, mi sto commuovendo. Sapevo chi erano i miei avversari. Lui, il primo, vabbè, era una spanna sopra tutti. Duboschi in finale non sbaglia mai. Lo dimostra la medaglia d'Atena, la medaglia a Pechino. Lui, quando c'è da andare, lui va sempre. Però anch'io ultimamente non le sbaglio più le gare. Questo è naturalmente un omaggio ai nostri dei tuffi, preparato per tempo dalla bravissima Laura Lanossi, anche a beneficio di tutti i permalosi che scrivono: ma sulla Cagnotto niente, ma in fondo chi se ne frega, sono tutti buoni a fare due tuffi, meglio parlare di una partita agostana. No, meglio parlare di tutto un po', soprattutto di quello che volete, perché in questo happening lo schema è libero, quindi il numero verde è per tutti, appassionati di calcio, di basket, di tuffi, di nuoto, di frisbee, di boccetti, quello che volete. È bello così. 800 24 00 24 è il numero verde. Io mi limito a notare che insomma 8.2 milioni di telespettatori ieri su Rai 1 per la partita dell'Italia. Insomma, qualcosa anche questo vorrà pur dire. Vogliamo per forza fare gli originali. Andrea da Venezia, buongiorno. Buongiorno Carlo. Io sarei voluto intervenire qualche giorno fa quando parlava di calcio giovanile con l'ex allenatore dell'Under 17. Allora, Andrea, posso dare subito a lei e a tutti gli ascoltatori un appuntamento che è già ufficiale, salvo cataclisma, che non avverrà. Venerdì a questi microfoni Filippo Galli, responsabile del settore giovanile del Milan, come ben sapete. Sì. Riguardo volevo dire, mi inserisco anche nel discorso di oggi, che parlare di giovani, parlare di opportunità Io credo che ci siano degli errori che partono dalla base. Io ho un bambino che gioca a 12 anni e gioca in un paesino qui attorno. A partire, è vero, diceva il suo ospite che i genitori andrebbero lasciati a casa, e dà ragione, però ci sono anche molti dirigenti qui, cioè si fa con i bambini di 12-13 anni, si fa un mercato come se fossero in squadra di Serie A, vengono anche penalizzati perché poi gli si danno illusioni che poi... Io, secondo me l'errore sta dalla base, è la base che non fa sì che arrivino veramente fuori giocatori di livello. Ultimo inciso, i difensori fino a, non vengono nemmeno considerati, quasi che cerca solo il Maradona nei settori giovanili. Ma i difensori sono giocatori che vengono visti solo se sono veramente dei fenomeni. Andrea, io non immagino il suo bimbo abbia questa idea di fare difensore magari, ma io non generalizzerei perché come in tutte le cose abbiamo avere un sacco di problemi a livello giovanile, nello sport giovanile. E secondo me sono principalmente problemi, lo ripeto tutte le volte, continuerò allo sfinimento perché questa è la mia idea, problemi di strutture, perché strutture praticabili, lasciamo stare quelle, le realtà di Milan e Inter, insomma, che almeno a livello centrale le strutture le hanno di primissimo livello, però è alla periferia, in senso lato del paese, che a quanto a strutture siamo deficitari, strutture e istruttori, poi anche dirigenti, poi anche educatori, poi anche quel che volete, però che servono, l'investimento forte deve essere fatto non sull'acquisto tra virgolette di un dodicenne o di un tredicenne, ma su quelli che gli insegnano a giocare a pallone e a stare al mondo, soprattutto nel mondo dello sport. Alfonso da Firenze, buongiorno. Urgente, vorrei dire due cose, spero di dirlo anche sinteticamente. Tre. Quello che vuole. Prima di tutto vorrei dire che Prandelli non è il padre nobile del calcio italiano, anche lui ha le sue simpatie e antipatie, e quindi sarebbe molto lungo elencare una serie di... A chi si riferisce? A Prandelli. No, capito. Lei dice alle sue simpatie e antipatie. Ai rapporti che ha avuto con Pazzini in modo particolare. Sì. Con Boggino, Fante, sì. E anche un'altra serie di calciatori. Sa, come tutti noi, no? Come tutti noi. Sì, vabbè, ma insomma non è il padre nobile, né essere no, umano. Ma non... Guardi, sì, ma nessuno lo discute, men che meno credo Cesare Prandelli. Cerca di crearle che un uomo di, come dire, una saggezza infinita, eccetera, eccetera. No, è una persona per bene, questo è indiscutibile. Poi che abbia avuto i suoi screzi, le sue simpatie e antipatie, come in tutti gli ambienti di lavoro... io credo che se lo riterrà utile e funzionale alla squadra, Pazzini verrà chiamato in questa nazionale, Bogino e gli altri naturalmente no, però io non credo che ci siano delle preclusioni di alcun tipo. La seconda cosa che vorrei dire, che ne direbbe lei di avere per alcuni anni un CT straniero? A che pro? Per fare cosa? Anche pro, è trovare un individuo che è completamente avulso, disincagliato da tutte le storie, tutte le amicizie, non lo so. Le inimicizie, sì. I pregiudizi, gli interessi, le simpatie. Sì, però bisogna anche, questo da un lato è vero, però è vero anche l'esatto opposto, cioè che la realtà italiana è molto complicata, va conosciuta fino in fondo, al di là dei condizionamenti, quindi... Può essere un CT straniero, arriva qui come sbarcare sulla Luna, non sa bene come funziona, forse è meglio avere, poi gli allenatori di qualità in Italia li abbiamo, non vedo questo tipo di problema. Io non ne faccio mai una questione di passaporti, io ne faccio una questione di bravura, di abilità, quindi fossimo in crisi alla voce allenatori, allora rivolgiamoci pure all'estero, come d'altra parte abbiamo fatto in molti sport con eccellente successo, è fin troppo facile fare i nomi di Velasco, Tanjevic e Ratko Rudic. Quindi o nel rugby, per esempio, continuo a pensare che ad esempio nel rugby dobbiamo imparare da quelli più bravi di noi, i francesi sono più bravi di noi e con commissari tecnici francesi nel rugby abbiamo ottenuto risultati migliori a livello di nazionale della nostra storia, non che gli italiani non siano bravi, però i maestri al momento sono da un'altra parte, giusto ingaggiarli. Nel calcio non mi sembra di vedere questo problema. Andrea da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Carlo. Io ho due considerazioni sulla nazionale. La prima è questa, cioè secondo me Prandelli è partito col piede giusto, per due motivi. Il primo perché secondo me ha dato incontro anche all'opinione pubblica con la convocazione di Cassano e Balotelli. Io non so quanto credesse anche a farlo giocare dall'inizio Balotelli, però secondo me l'ha fatto anche per venire incontro all'opinione pubblica, e lui sa, secondo me, visto che è una persona intelligente, che l'opinione pubblica è importante. Se è così parlerei più di furbizia, però io credo che comunque Cassano e Balotelli, al di là di... È chiaro che adesso c'è questa operazione simpatia che è stata varata, no? Allora tutti dentro, quelli che la gente azzurra vuole, quindi non solo Cassano e Balotelli, che sono una idea tecnica precisa di Prandelli e non un'idea estemporanea per recuperare simpatia, però dentro anche Baggio, dentro Sacchi, dentro Rivera, dentro tutti quelli che sono in grado di rialzarci il morale e di fare consenso. Credo invece, Andrea, che Cassano e Balotelli siano sul serio due giocatori sui quali Prandelli punterà da qui alla fine del suo mandato. Lei che dice? No, sì, effettivamente è molto probabile, le due cose si sposano. Sicuramente un po' di furbizia c'è stata, cioè sì. Lui sa che deve porsi in modo diverso davanti all'opinione pubblica, perché Lippi ha lasciato, soprattutto sotto questo punto di vista, un pessimo ricordo. Dico soltanto una piccola cosa: nell'intervista di fine partita, non so se lei ha notato, Prandelli ha detto, gli hanno chiesto la prestazione dei singoli. Di solito gli allenatori non lo dicono, per tanti motivi, per non premiare uno piuttosto che un altro, ma di solito parlano di team. Invece lui ha dato delle risposte precise su Cassano, meno, cioè ha dimostrato che lui ha uno stile diverso, e secondo me questo farà piacere all'opinione pubblica nonostante le critiche. L'altra piccola considerazione che la faccio di natura tecnica, invece penso che il progetto tecnico è giusto, perché lui ha fatto così a Parma, ha fatto così a Firenze, e anche la maggior parte delle squadre italiane oggi giocano con quel sistema. Quindi anche il campionato italiano sta producendo giocatori che sono pronti per giocare con quel modulo, poi va soltanto un po' raffinato. Sì, è anche vero che è un modulo che richiede condizione fisica, e l'Italia, i giocatori italiani in questo momento non ce l'hanno, ne parlavamo giusto prima con Bazzani. È stato molto istruttivo secondo me il parallelo che lui ha fatto con un'esperienza vissuta in prima persona, cioè con la prima Italia di Lippi. Anche a Lippi, se ci ricordiamo bene, si chiedeva un rinnovamento profondo dopo la fallimentare ultima esperienza di Trapattoni. Si chiedeva qualcosa di nuovo, di radicalmente nuovo, e ci fu in effetti, con un Under 21 che aveva prodotto comunque tanto materiale valido, però ci vuole un briciolo di pazienza. Io valuterei in questo momento le scelte di Prandelli, che a me, ripeto, piacciono. Roberto da Ferrara, buongiorno. Buongiorno, sono Roberto, chiamo da Ferrara. Vorrei mettere in evidenza un paio di cose. La prima, che ho visto la partita ieri sera, è che non ho sentito quasi nessuno, forse non ho fatto il tempo a sentire, che noi abbiamo giocato contro un avversario molto forte. Sì. Noi abbiamo giocato contro un avversario forte che non molla dall'inizio alla fine, quindi abbiamo messo la squadra proprio alla prova. E non hai giocato male, dobbiamo dare la speranza a questi giovani, a questi ragazzi, anche a Prandelli, che io ho molta fiducia in queste persone. Lei inizialmente parlava di giovani, e io non voglio fare retoriche e polemiche, ma i giovani con Donadoni si è già cominciato a giocarci. Poi qualcuno ha tarpato le ali, è un discorso che sì, diventa polemica, non voglio farlo col presidente. No, ma faccia pure. Abbiamo speranza ai giovani, non chiudiamo, però c'è una cosa da dire, noi dei fuori classe non ne abbiamo. Basta misurare quanti giocatori italiani giocano all'estero, quanti giocatori esteri giocano in Italia. Sì. Non voglio dire altro, li ringrazio. No, ma parli pure, non c'è nessun problema, non c'è la censura. Noi di fuori classe non ne abbiamo. Fuori classe è un parolone che io uso solo per pochissimi al mondo. Giocatori importanti ne abbiamo, magari anche di potenziali fuori classe, e per me, ripeto, ad esempio Balotelli, scusate la ripetizione, ma lo è un potenziale fuori classe, ma ripeto, il più forte ventenne del mondo secondo me. Dipende da lui diventarlo sul serio, un fuori classe tutto tondo, oppure rimanere se rimane così, chiaramente un incompiuto. Cassano forse ha perso il treno per diventare un fuori classe a livello mondiale. Poi stiamo parlando di giocatori comunque che, non dimentichiamolo, lo stesso Cassano di esperienza internazionale non ne hanno moltissima, paradossalmente. Quanto ai giovani sì, devono meritarselo, quello che continuo a ripetere. Spazio per loro, non lo possono pretendere lo spazio né nel club né in nazionale, se lo devono meritare facendosi un mazzo così. Giancarlo, provincia di Vicenza, buongiorno. Ah, buongiorno dottor Genta, è un piacere per me parlare con voi, di Radio 24, è il primo mio intervento e seguo soltanto la vostra trasmissione a carattere sportivo. Detto questo, volevo dire un po' la mia sulla partita di ieri sera dell'Italia. Io ritengo che la soluzione migliore sia sempre un mix tra esperienza e nuovi inserimenti. Per cui io penso che Prandelli, che è un ottimo allenatore, lo considererà senz'altro, ma Buffon in porta, Pirlo a centrocampo, due innesti che ancora possono risultare molto molto preziosi per l'Italia. In attacco, visto che poi è stato fatto anche questo intervento precedentemente, al posto, ecco, anch'io il posto di Amauri, io vedrei bene Pazzini proprio per un discorso di investire per tempo nel futuro. L'Italia ha tutte le carte in regola, ha le potenzialità ottime. Io mi auguro solo che ci sia l'umiltà di scendere in campo con la volontà e anche la piena disponibilità di imboccarsi le maniche per creare un sport. Sì. Sì, condivisibile quanto lei dice, ma lei ha parlato di Buffon, lei ha detto un mix di gioventù e esperienza, credo che comunque dei giocatori di peso, di giocatori in ruoli chiave di esperienza possano servire. Certamente Buffon sarà portiere titolare anche con Prandelli, ma questo si sa già, no? Sarà uno dei leader, è già uno dei leader designati di Prandelli. Pirlo credo che possa tornare utile, però... Se dobbiamo cambiare pelle, ovviamente giocatori funzionali a questo nuovo progetto, non soltanto per avere queste chiocce nello spogliatoio. Certamente Buffon e Pirlo possono esserlo. Perché Pazzini non era un bravo attaccante? Non so, qualcuno contesta questa mia definizione. Pazzini è stato un ottimo attaccante della nostra Serie A. Bazzani, che è intervenuto da noi prima. Non capisco queste osservazioni via SMS. Ci fermiamo un attimo per il traffico. Gianluca da Napoli e Stefano da Roma subito dopo. A tempo di sport. Gianluca da Napoli, buongiorno. Salve Carlo. Salve. Volevo fare un paio di constatazioni sulla nostra nazionale. Prego. Allora, innanzitutto sono d'accordo con i vostri discorsi che avete fatto sia con Bazzani che con Novellino. E dopodiché volevo dire che dobbiamo dare del tempo a mister Prandelli, perché comunque in base alla convocazione che ha fatto ha fatto capire che lui te rappresenta tutti, non sì. Avrà preclusioni. Ecco, questo a me piace filosoficamente, che è quello che conta in questo momento. Ho parlato di apertura mentale di Prandelli nei giorni scorsi. Ed è quello che mi piace, quello che conta l'11 di agosto dopo una partita inutile, un'amichevole persa contro la pur forte Costa d'Avorio, come avete giustamente sottolineato. Ma ciò che conta è l'idea di base, no? Cosa vogliamo? Stiamo lì a vedere, perso, vinto, ma chi se ne frega? Che conta sono... È questa filosofia. Io non mi darebbe fastidio vedere delle preclusioni nei confronti di giocatori convocabili per motivi vari assortiti, o che non sono nati in questo paese pur avendo le carte in regola. Ieri Mauri l'ha chiamato, può essere utile funzionare al suo progetto, se lo sarà calcisticamente, se no no, perché non bisogna chiamarlo solo per dimostrare di essere aperti agli oriundi. Se sarà utile, e io credo possa essere utile, è giusto chiamarlo. Mi ha dato fastidio nella recente passato vedere questa sorta di razzismo camuffato, quasi al contrario, no? Potrei chiamarlo ma non lo chiamo perché è nato da un'altra parte. Questo è sbagliato se si ritiene che un giocatore sia forte e utile. Mario, provincia di Milano, buongiorno. Carlo, buongiorno, è sempre un piacere. Diciamo che avete detto quasi tutto, quindi tralasciando il fatto che si era il 10 di agosto, quindi non si potevano dare dei giudizi affrettati su questa nazionale. Piace molto anche a me l'apertura mentale di Prandelli di non escludere nessuno a priori. Rimarchiamo anche il fatto che la Costa d'Avorio comunque non era una nazionale sperimentale, perché comunque ha già dato prova nel mondiale del 2006 e in quello del 2010, che comunque è un'ottima squadra. Io avevo, diciamo, un'idea, un suggerimento così per parlare. Due mediani davanti alla difesa, magari che sanno giocare un pochettino meglio il pallone. Esempio, io dico io Pirlo Montolivo, lei come la vede? Tutte e due? Insieme, premettendo che comunque il classico doppio pivot che davanti alla difesa... Mi sa che poi lì si fa un po' di fatica, dovendo, se partiamo dal presupposto che Cassano, Balotelli più un attaccante che sia Mauri, Gilardino, Pazzini, Boriello, chi volete voi, e poi mettiamo anche due giocatori che non fanno hanno imparato a fare la fase difensiva, Pirlo in maniera straordinaria, anche se è fatalmente un po' in calo fisico, quindi lì ci vogliono gambe fresche per fare quel lavoro. Ne mettiamo due lì davanti, con quei tre insomma mi sembra un po' tanta roba, certamente. Poi io non sottovaluterei comunque l'abilità nel far ripartire l'azione dei due che c'erano ieri sera, uno neocapitano De Rossi, l'altro capitano da Sampdoria Palombo. Mi sembrano due buoni giocatori di calcio, insomma, anche nel momento in cui la palla viene recuperata, quindi certamente riflettiamo sulla possibilità di aggiungere un geometra vero, che possa essere un ingegnere, se preferite, che possa essere Pirlo Montolivo. Questi sono discorsi che Prandelli farà. Meno male che Leonardo, una nostra ascoltatrice, si professa non grande esperta, scrivendo: ho l'impressione che Ali come si deve non ce ne siano, e questo mi sembra un rilievo più preoccupante. Secondo me siamo un po' scoperti sugli esterni, perché forse lì Pepe non assicura effettivamente quella qualità che servirebbe, almeno al momento. Ugo da Brescia. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a chi è in ascolto. Mi sono approcciato ieri a guardare la partita con uno spirito che era uno spirito di speranza, rispetto a quello che invece era uno spirito un po' di rassegnazione rispetto ai mondiali. Già questo per me è positivo. E la sensazione è stata proprio quella. Ecco, detto ciò, voglio dire, abitando in un paese vicino a quello di Prandelli, originario di Prandelli, noi l'abbiamo conosciuto come persona agli inizi e l'abbiamo sempre stimato, anche quando ha fatto, diciamo, la sua carriera, consideriamo una persona seria. Io gli auguro tanta fortuna. Uno di voi. Ecco, uno di noi. Poi Cesare Prandelli da Orzi Nuovi. Quel Balotelli che anche lui conosciamo bene. E che è lì dalle vostre parti anche lui. Esatto, che giocava nel Lumezzane. Visto con grande soddisfazione ieri, perché il ragazzo, diciamo così, è un po' un guascone, un po' uno scapestrato. Ma se puntiamo sui giovani e se non facciamo giocare uno con Balotelli, diciamo, chi facciamo giocare? Nessuno. Scapestrato, guascone, quello che volete, ha tanti aspetti di carattere da animare, però la personalità è qualcosa di prezioso e di importante. Insomma, tra personalità e presunzione ci può essere un passo anche piuttosto breve, però insomma questo qua è un giocatore clamoroso, a mio parere, quindi poi se vi sta antipatico sono fatti vostri, però è un giocatore clamoroso. Quindi la nazionale dei bresciani, quindi lei dice, da Prandelli da Orzi Nuovi a Mario Balotelli da Concesio. Piero da Cesena, buongiorno. Se te vorrei fare un passo indietro, parlare sui giovani, e sì, te li faccio al Cesena, no? Quest'anno il Cesena in Serie B ha ricevuto 120.000 euro come minutaggio per aver fatto giocare i giovani under, sì, di Uric, che lotta, non sto qui. Sì. Dopo il miracolo della Serie A, fra l'altro con un presidente giovane, ci troviamo con i finanziamenti girati dalla federazione con 2 milioni e mezzo da girare alle squadre che partecipano all'Europa League, tra questi la Juventus. Questo per me è anche tagliare un po' le gambe a chi si impegna a far giocare i giovani e vedere, perché con i giovani il Cesena è andato in Serie A e si trova 2 milioni e mezzo perché la federazione li deve girare alle squadre che partecipano all'Europa League. Sì. Cioè, mi sembra una cosa proprio assurda. Sì, una neopromossa che venga tagliata di 2 milioni e mezzo, sì, per girarli alla Juventus. Sì, ma capite il senso del discorso? No, il senso del discorso, sì, è chiaro, una piega regolamentare che francamente non conosco e non ho approfondito. Così fosse, sarebbe abbastanza uno dei nostri tanti controsensi. Io torno a ripetere, al di là degli incentivi, stiamo parlando sempre di calcio professionistico. Evidentemente il Cesena ha fatto giocare i giovani perché i giovani erano di qualità, tanto che è stato promosso, ha centrato la promozione in Serie A. Dunque vedete che i conti alla fine tornano, o quasi, no? Al di là di quelli economici cui l'ascoltatore fa riferimento. Adesso però cominciamo a inquadrare il weekend dei motori. Sport e motori. E due chiacchiere con Mario Poltronieri le facciamo sempre volentieri. Ciao Mario. Grazie, ciao, buongiorno a tutti. Senti, weekend di Brno, Ovviamente tutti distratti da questioni contrattuali relative al mercato piloti, a Valentino Rossi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma dal punto, sulla pista, che cosa dobbiamo aspettarci da questo weekend, non solo nel MotoGP? Ma, direi tutto sommato la situazione rimane quella che è, cioè Valentino che deve ricercare la forma completa e Lorenzo che naturalmente cercherà di migliorare il suo record, perché 6 vittorie e 3 secondi posti in 9 gare, siamo già a metà campionato e vuol dire che praticamente il discorso è in linea teorica ancora aperto, ma dal punto di vista pratico mi pare che gli avversari che ci sono, Valentino per una questione di salute, Pedrosa perché va a corrente alternata e Stoner comunque lì a Brno annunceranno ufficialmente questo passaggio alla Ducati, non credo, dato il temperamento, che sia nelle condizioni di spirito di dire ah beh, adesso finisco con la Ducati, faccio vedere come sono forte. Per cui mi sembra una situazione dove francamente l'interesse maggiore è un po' di vedere quelle che saranno le seconde guide, come si dimostreranno nei confronti dei capi, perché il discorso curioso è anche quello: chi prenderà realmente il posto di fianco a Lorenzo? Sì. È importante, perché si parla di Spitz, però non sappiamo. Dovizioso, se Stoner va alla Honda, come appunto è. Poi voglio ridere anche sui rapporti tra Stoner e Pedrosa che è un tipo strano, molto chiuso con il suo manager, poi fanno gruppo a sé stante, eccetera, eccetera, certo. Eccetera. Anche lì la chimica di squadra non la vedo brillantissima, eh. No, infatti, anche perché poi c'è di sottofondo come distribuirsi i capi meccanici, uomini di fiducia in questo passaggio da una parte all'altra. Sai quanti muri nei paddock l'anno prossimo? Serve un camion di mattoni, caro Mario. Volevo chiederti invece un'altra cosa. Nelle altre due classi, alle spalle di quella che quelli bravi chiamano classe regina, che cosa sta succedendo? C'è qualcosa di interessante a livello di piloti? C'è qualcosa di interessante a livello di battaglie agonistiche? Beh, di battaglie agonistiche senza dubbio ce n'è, a livello di piloti direi che non c'è molto da scoprire, perché la classe Moto2, quella cioè col motore standard 600, sì, dove sono passati quelli della 250, non sta rivelando in particolare piloti particolarmente. Ti piace questa novità di quest'anno? Boh, sì, diciamo che dal punto di vista del rilancio della categoria, e cioè delle gare alternative alla MotoGP, perché io sono sempre stato fautore delle almeno 3 categorie, perché quando io pago il biglietto voglio vedere uno spettacolo che duri più di 3/4 d'ora. Quindi indispensabile. Io sai, vengo dal tempo in cui c'erano 5 gare, quindi allora era una giornata piena di sport. Adesso ecco, la Moto2 ha consentito a una quarantina, credo passa, di piloti di inserirsi in una categoria che comunque ha delle prestazioni interessanti, anche se inferiori comunque alla precedente 250. Nella 125 sì, anche lì stanno venendo fuori, ma guarda caso strano, parliamo sempre di un dominio spagnolo in questo periodo, anche lì gli spagnoli vanno molto bene, cioè ci mancano i giovani per le squadre di calcio, ma ci mancano anche i giovani per le squadre motoristiche. Sì. Comunque vediamo che cosa succederà, però come ti dico, lo spettacolo è interessante, direi che però l'orientamento tecnico in questo momento non è tanto su quelle categorie lì, quanto sul fatto che nel 2012 si torna al 1000 nella MotoGP. Sì. Quindi questo anno, questo 2011 sarà un anno dove si farà relativamente poco sviluppo e si cercherà invece di studiare di studiare soluzioni per l'anno che verrà dopo. Grazie Mario, a presto. Prego, ciao. A prestissimo. Di motori parliamo tutti i giorni, come avrete ormai capito, perché semplicemente è l'argomento dell'estate. Lo faremo anche domani, dopo ovviamente essere tornati sui discorsi, che ci sono moltissimi ascoltatori che volevano intervenire oggi, non sono riusciti, si tratta di aspettare 24 ore, domani alle 2 siamo qui e ricominciamo a parlare di quello che volete, come sempre. Grazie a Laura Manossi in redazione, a Fabio Cantadori in regia, domani.